già te l'ha detto che a quello che fai devi stare più attento. Hai un futuro davanti, player, devi essere svelto. Ma te ne sbatti ogni giorno e rimani lì in mezzo, ah, allo stesso parchetto con il solito gruppetto. Fuori d'estate, fuori d'inverno, con il cappuccio su, marchio di riconoscimento. Quelle due canne in più e tuoi occhi neri da spavento. È per fumare gratis che hai preso gancio quel letto. Perché non si guadagna, non guadagni rispetto. Col solito andamento il tuo cervello fa boom come a Hiroshima se non stai sveglio. Non fosse per quel sogno nel cassetto, cassetto, avresti già buttato quel cazzo di quadernetto. Sto cercando una chance e non mi aspetto che mi aiuti, quindi son costretto a fottarti come i ridi di questo. Bad left, strade fuori, voglio che a back. Si tratta di back money, voglio che a back. Keep lontano dai player che odi, voglio che a back. Mi stai ascoltando homie, voglio che a back. Bad left, strade fuori, voglio che a back. Si tratta di back money, voglio che a back. Lontano dai player che odi, voglio che a back. Mi stai ascoltando homie. Check player, mi hanno detto che se chiudo gli occhi vedo scuro. Vedo tutt'altro, t'assicuro, ma se li riapro vedo strade, gente falsa e soldi. Chi cerca di farne tanti e chi si consola tocchi. Con tanti gira e la testa gira, molti sai. Come due montanti in faccia diretti da Mike Tyson. Vuoi sentirti dire bravo, questo è ciò che ti succede se stai cercando guai bro. Dai un po' di slow, hai i tuoi giorni con un blanto. Prendi ciò che hai e fa tutto quanto. Pensi che sia tutto qua? No, fra, ne scenderà di pioggia prima di stare sopra. Il 90% dei player non sa come si sta e ancora oggi girano fatti per la città. Forse il segreto sta nel vivere in freestyle, ma tieni gli occhi aperti, non sai cosa ti perderai, man. Bad left, strade fuori, voglio che a back. Si tratta di back money, voglio che a back. Keep lontano dai player che odi, voglio che a back. Mi stai ascoltando, homie, voglio che a back. Bad left, strade fuori, voglio che a back. Si tratta di back money, voglio che a back. Lontano dai player che odi, voglio che a back. Mi stai ascoltando, homie, voglio che a back.